2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati o benvenuti, questo è 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Potete raggiungerci scrivendo a 2024@radio24.it oppure utilizzando Facebook o Twitter. In questa puntata iniziamo da una notizia che arriva dal mondo assicurativo. Le assicurazioni francesi AXA hanno lanciato un nuovo prodotto digitale per assicurarsi contro i ritardi dei voli aerei oltre le due ore, quindi un servizio, un prodotto molto semplice. È tutto digitale, ci si iscrive almeno 15 giorni prima del volo e se l'aereo atterra due ore oltre il previsto si riceve automaticamente il risarcimento. Sottolineo la parola automaticamente, non bisogna fare nulla, se l'aereo arriva in ritardo si riceve il risarcimento, che tra l'altro viene indicato nel momento in cui ci si iscrive. Uno dice: devo volare dal punto A al punto B, l'assicurazione costa X, il risarcimento eventuale in base al ritardo è Y. Però per garantire la robustezza del processo, AXA ha scelto di basare questo prodotto sulla blockchain di Ethereum. Allora, Ethereum è una delle criptomonete più diffuse, la più nota è Bitcoin, e anche Ethereum ha un proprio registro pubblico, quindi una blockchain, così come ce l'ha Bitcoin, così come ce l'hanno tutte le criptomonete. Su questa blockchain si possono basare anche i cosiddetti smart contracts, i contratti smart, dove è la rete mondiale di computer che garantisce la bontà delle transazioni. È tutto immodificabile, tutto assolutamente sicuro, non hackerabile. È vero che ci sono state alcune criptomonete che invece sono state bucate, ma in modo particolare blockchain ha dimostrato di essere assolutamente robusta e per alcune applicazioni anche Ethereum. Poi su questo tema potremmo discutere per ore. Comunque è interessante che venga utilizzata, ci sono tanti progetti nel mondo per utilizzare blockchain per smart contracts, ma questo è un esempio molto semplice da comprendere. Allora, questo prodotto si chiama FITSI, con la Y finale, ed è al momento attivo solo sui voli fra Parigi e gli Stati Uniti, ma AXA promette che verrà esteso nel 2018 in tutto il mondo. Allora, direi che sono interessanti due aspetti. Allora, primo, l'abbiamo detto, l'uso di blockchain per garantire la robustezza, l'immutabilità del contratto. Secondo, l'uso di informazioni disponibili e già digitali che possono scatenare dei processi. Non a caso AXA chiama questa assicurazione Parametric Insurance, parametrica, cioè perché è basata su dei dati che sono disponibili ovunque e si possono utilizzare. Pensate ad esempio alle informazioni, il ritardo di un aereo è un'informazione disponibile all'istante su internet. Ma pensate a tante informazioni che sono disponibili e dimostrabili senza ombra di dubbio. Quante di queste informazioni potrebbero essere utilizzate per le assicurazioni? Pensate anche alle assicurazioni meteo. Ormai il mondo è pieno di stazioni meteo che ci dicono, se non chilometro dopo chilometro, ma provate ad esempio ad andare sulle mappe meteo di Netatmo, che sta costruendo una rete di pluviometri, di altri sensori che ci descrivono in tempo reale le condizioni meteo. Insomma, potete pensare a tantissime cose, ma se pensate all'evoluzione dei sensori e quindi di tutto quel mondo che va sotto il cappello e l'ombrello di sensor data, quindi dati che arrivano dai sensori, e anche in questo caso stiamo parlando di una cosa che sta esplodendo nel mondo, beh, potete capire che automaticamente, e la parola automaticamente è molto importante anche per una cosa che dirò tra poco, automaticamente si possono scatenare una serie di azioni. Abbiamo fatto l'esempio delle assicurazioni, di un'assicurazione, ma si possono fare tantissimi altri esempi. La parola automaticamente è importante perché, beh, oltre alla comodità e alla trasparenza di questo processo, ma pensate all'impatto che potrà avere sui posti di lavoro. In questo caso stiamo parlando ovviamente di una cosa molto molto semplice, ma invece di esserci una persona che deve verificare se a fronte della mia richiesta di risarcimento l'aereo effettivamente ha fatto un ritardo di due ore o di quattro ore eccetera eccetera, invece in questo caso sono tutti sistemi automatici che si informano tra di loro e prendono informazioni dalla rete. Adesso abbiamo alcune notizie in breve selezionate nelle nostre Digital News. Digital News. Iniziamo dal mondo delle biciclette, che sta, l'abbiamo detto varie volte, sta subendo una trasformazione molto forte, molto importante, perché la propulsione elettrica, quindi con le biciclette a pedalata assistita, ma anche con tutta una serie di sensori che si connettono alla rete, sta trasformando questo mercato. In questo caso invece la notizia riguarda la città di Milano, perché dopo l'arrivo in Italia, a Milano ma anche a Firenze, della cinese Mobike, un altro operatore sempre cinese che si chiama Ofo, O-F-O, lancia il proprio servizio di biciclette condivise a flusso libero, il cosiddetto bike sharing free floating, o anche station free, perché non devi riposizionare, riportare la bicicletta alla stazione, ma la puoi mettere dove vuoi, tanto è connessa alla rete, ha un sensore GPS e la ritrovi con lo smartphone e con l'applicazione. Le prime 4.000 biciclette saranno operative a Milano da ottobre. Ricordo che Ofo è attiva molto in Cina, essendo cinese, ma in 170 città nel mondo. Arriva da questa settimana un nuovo servizio di musica in streaming per il nostro paese. Amazon ha infatti esteso all'Italia il servizio Music Unlimited, che conta un catalogo di 50 milioni di canzoni. Altri servizi hanno meno canzoni, però devo dire che poi, se uno non è proprio super appassionato di cose molto vecchie, trova quasi tutto. Comunque è importante sapere che ci sono 50.000 canzoni su questo servizio. Il prezzo base è il classico 9,99, quindi 10 euro al mese. Ricordiamo che nel settore Spotify guida il mercato con 140 milioni di abbonati, di cui 60 milioni che pagano un abbonamento mensile. Oltre a quello base ci sono varie versioni, come le versioni famiglia, che permettono di condividere il servizio all'interno della famiglia. TIM, che continua a sgomitare per portare fibra in giro per l'Italia, in molti casi fibra fino al cabinet, quindi fibra fino ad un certo punto e non arriva fino alla casa, comunque già le performance dei servizi vengono estese, e soprattutto cerca di accelerare questo processo, visto che ora ha un competitor vero e proprio molto forte come Open Fiber di Enel. Ha firmato un accordo con Utilitalia, la federazione che raggruppa le utility italiane, quindi le società che distribuiscono luce, gas, acqua e altri servizi che riguardano la città e che quindi possiedono reti. Molto interessante, se io devo posizionare fibra ottica, andrò alla ricerca di tubi, cavidotti, canaline, pozzetti, insomma un accordo molto, molto interessante e molto importante. Allora, questo accordo prevede una sorta di via agevolata per TIM per usare queste infrastrutture e posare più facilmente, velocemente e anche a un costo più basso, fibra ottica. Parliamo di venture capital. Abbiamo sempre il solito problema in Italia di avere investimenti non elevati, anche se nelle ultime settimane abbiamo commentato l'arrivo di un investimento molto importante di quasi 20 milioni per Satispay, ma la notizia di questa settimana riguarda due startup che hanno ricevuto 600.000 euro. Non è che siano tantissimi, però facciamo comunque i complimenti a El Venture e a Invitalia, che hanno investito 600.000 euro per ciascuna di queste due startup. Una si chiama To Hire, che produrrà un dispositivo che si collega alla porta OBD delle automobili. Ci sono in tutte una porta che è nascosta magari sotto, vicino ai pedali o comunque in qualche parte sotto al cruscotto, e serve per gestire con questo piccolo strumento che si attacca a questa porta, serve per gestire il veicolo da remoto sullo smartphone in tempo reale. Questo oggetto potrà essere utilizzato anche come chiave digitale, perché si connette al cuore elettronico dell'automobile. Altri 600.000 euro sono stati investiti in Big Profiles, che invece ha sviluppato un algoritmo che si occupa di Customer Intelligence, che permette alle aziende di arricchire i profili dei consumatori, produrre un profilo completo di questi consumatori grazie a molte informazioni presenti su social network, banche dati pubbliche, albi professionali. Tutto questo viene impacchettato, questo algoritmo crea un profilo dei consumatori. Sono due settori molto interessanti ci sono molti altri competitor. Certo, stiamo parlando di finanziamenti che nulla hanno a vedere con il mega investimento che ha annunciato questa settimana Sequoia Capital, che è uno dei più grandi fondi di venture capital nel mondo, che ha investito in una società che si chiama 23andMe, 23 e me, questo nome particolare, che effettua test genetici a domicilio. Ti spediscono a casa un kit, tu ci sputacchi dentro, chiudi tutto, lo rispedisci, loro in questo modo fanno un'analisi del tuo DNA e ti dicono tante cose. Questo è un settore che sta letteralmente esplodendo. Allora, hanno investito in questa società 250 milioni di dollari. Questa settimana tutti gli esperti di automobili hanno concentrato gli sguardi a Francoforte per il Salone dell'Auto di Francoforte, e un dato importante, direi due dati importanti, ma forse uno spicca sull'altro. Il primo, che abbiamo già visto in altre occasioni, è l'attenzione alla connettività. E comunque l'elettronica di bordo dei veicoli, auto sempre più connesse in vista poi dell'arrivo di automobili a guida autonoma. Comunque la connettività è un tema dell'oggi e non del domani. Oltre a questo, veicoli a propulsione elettrica. Sull'elettrico c'è stato una vera e propria evoluzione molto repentina dei produttori tedeschi, visto che ci sono investimenti stratosferici negli Stati Uniti e anche in Cina. La Cina sta andando molto veloce verso l'elettrico, e la notizia della settimana è che a Francoforte non c'è stato nessuno tra i produttori di auto tedesche che non abbia parlato in modo insistente e con grandi presentazioni della propulsione elettrica. Forse la notizia più eclatante è stato l'annuncio di Volkswagen, che ha annunciato di impegnare e di investire 20 miliardi di euro da qui al 2030 per la propulsione elettrica, che vuol dire cambiare i processi produttivi, cambiare le fabbriche, cambiare anche proprio il modo con cui si approccia il mercato. Automobili che diventeranno molto più semplici, ci sono più di 2000 parti all'interno di un'automobile a combustione e a meccanica tradizionale, invece poche decine di pezzi all'interno di un veicolo elettrico. Poi le cose si complicano quando invece sul veicolo elettrico ci monti sensori e sensoristica per le auto a guida autonoma. Tra l'altro vi annuncio che parleremo presto con una persona che lavora in Silicon Valley, e quindi parleremo di auto a guida autonoma, un'evoluzione molto più veloce di quello che forse noi pensiamo. Sarebbe bello poter vedere sulle strade italiane sperimentazioni di auto a guida autonoma, così come accade negli Stati Uniti e in qualche altro paese nel mondo. Adesso parliamo di un altro evento che c'è stato in settimana. Siamo a Cupertino, California, dove ha sede Apple, che ha presentato i nuovi prodotti, ed è una occasione, come accade in altri, come è accaduto altre volte, per parlare di alcune tecnologie, per riparlare di alcune tecnologie. Luca Salvioli, inviato del Sole 24 Ore a Cupertino. Luca, bentornato a 2024. Grazie. Partiamo da questa nuova e, dicono tutti, bellissima, fantastica sede chiamata, ribattezzata l'Astronave. In modo particolare, poi voi siete stati nel teatro Steve Jobs Theater, dove si è tenuto questo evento. Una sensazione di questo luogo particolarmente bello? Beh, qualcuno infatti ha detto Apple svelerà un nuovo iPhone, ma anche la nuova sede in qualche modo, quindi due prodotti allo stesso tempo, poi ne ha presentati di più. Però in effetti questo fatto ha reso l'evento particolarmente eccezionale, cioè il fatto di entrare per la prima volta nell'Apple Park, che diciamo al cui interno questa definizione contempla sì la sede dove i dipendenti ancora non si sono trasferiti, ma lo faranno non penso fra molto, che è la famosa sede appunto a forma d'astronave. Noi poi in realtà siamo andati nello Steve Jobs Theater, appunto un teatro dedicato a Steve Jobs, che si erge diciamo su una collinetta da cui poi vedi almeno una parte di questo anello, esatto. Sì, sì. E, beh, devo dire che ha contribuito a rendere l'evento eccezionale, perché ti devi immaginare questo piccolo tempio, in effetti, fatto di vetro, grandi pareti di vetro. Scavato e sotterraneo, vero, il teatro? Sì, diciamo, questa che ti descrivevo, la parte in cui arrivi, quindi è rialzata esterna. Sì, l'entrata. Sì, l'entrata, sì. Con un tetto circolare, mi pare che sia d'argento, comunque color argentato, e poi si scende all'auditorium in due modi: o con questa ascensore che gira su se stessa, che soltanto Apple poteva inventare, perché molti ascensori tu entri da un lato ed esci dall'altro quando scende, no? Sì. E in questo caso, al posto di fare due porte, che forse non gli piaceva esteticamente, c'è una porta e l'ascensore scende e ruota su se stesso, un ascensore rotante. Ah, quindi con una sola ruota, con una sola apertura. Esatto, sola porta. Con una sola apertura. E arrivi giù in questo auditorium da 1000 posti, molto bello, ben fatto, insomma. Beh, questo è un po' per dare la sensazione di questo luogo molto bello, perché una delle caratteristiche principali di questa presentazione è proprio lo spettacolo. Molti parlano e molti seguono queste presentazioni anche solo per lo spettacolo. Tutte le altre aziende ci stanno provando, perché tutte le altre aziende di tecnologia hanno poi fatto negli ultimi tempi delle presentazioni alla Apple, ma ancora nulla di straordinario, perché poi le presentazioni sono molto semplici, no? Però effettivamente è stata un po' lunga, perché due ore è un paio d'ore, sì, una delle venendo poi ai prodotti, sono stati presentati tutta una serie di prodotti. Noi oggi ci concentreremo su quello che mi dicono anche i distributori essere l'oggetto già del desiderio. iPhone X, si scrive X ma si pronuncia 10, perché è da 10 anni che è stato presentato il primo iPhone da Steve Jobs. Un'altra cosa importante è la presentazione che è venuta un po' prima del watch, cioè l'orologio. Ci siamo un po' forse dimenticati degli orologi, ma un certo tipo di pubblico vende. Beh, compra. Tra l'altro Tim Cook nella presentazione ha detto che Apple Watch quest'anno ha superato Rolex come vendite mondiali. Non era chiaro se si riferisse al fatturato o alle unità e quindi ai volumi, però è rilevante questo aspetto. Diciamo che all'interno del bilancio di Apple, che è una cosa mastodontica, i numeri di Watch sono abbastanza ridotti, ma relativamente a Apple, se fosse una qualsiasi altra azienda, Watch avrebbe avuto dei risultati notevoli. La novità di quest'anno è che si passa alla terza edizione. Avevamo il Watch 2, era l'ultimo arrivato, il Watch 3 finalmente, diciamo che si svincola dall'iPhone, cioè ha una rete cellulare autonoma, non è una SIM fisica, perché non hanno inserito una nano SIM, ma è una SIM virtualizzata, eSIM, esattamente, motivo per cui purtroppo non arriva in Italia al primo giro, perché insomma con gli operatori non è così facile evidentemente realizzare una soluzione di questo tipo. Sì, perché clona il tuo numero di telefono che hai sul cellulare, tu, che poi è lo stesso, esatto, sì, è lo stesso di iPhone. La cosa buona è che insomma puoi uscire a fare una corsa intanto con tutte le canzoni di Apple Music, e poi puoi fare telefonate anche se iPhone non è nella stessa stanza, come invece avviene oggi collegandosi con il telefono. Sì, puoi uscire senza il telefono e ricevere comunque le telefonate volendo. Esatto, infatti durante il keynote si sono collegati in diretta con una manager di Apple che era tipo in piedi su una sorta di canoa e faceva la telefonata con il watch senza l'iPhone. Certo, scusa, le canzoni, tutte le canzoni di Apple Music inserite, nel senso che te le regalano? Non devi pagare l'abbonamento? No, c'è sempre l'abbonamento, però è disponibile, poi si può avere tutto direttamente sul watch, la scelta di canzoni. Carolina Milanesi, collegata con noi dalla California, analista di Creative Strategies. Bentornata 2024, Carolina. Grazie. Una domanda sul watch, visto che stiamo parlando di una categoria di prodotti che forse non ha sfondato come molti si aspettavano. Che cosa ci dici di questa categoria di prodotti di cui Apple è diventata, direi, comunque leader, sicuramente in termini di valore fuori di dubbio? Sì, diciamo che le aspettative iniziali erano troppo alte, quindi cominciamo da quello, che c'era questa eccitazione di pensare, siccome il watch replicherà, non lo watch soltanto per Apple, ma gli orologi intelligenti, sì, gli orologi intelligenti replicheranno molte delle funzioni del telefono, siccome tutti hanno un telefono, tutti avranno un orologio, e la cosa non era effettivamente così. L'altra parte che secondo me non ha aiutato la categoria inizialmente era che non era chiaro effettivamente il ruolo di questi oggetti e molti consumatori li hanno comprati non sapendo effettivamente che cosa farsene e non hanno investito del tempo. Io fin dall'inizio sono stata convinta che se tu passi del tempo e cerchi di capire che cosa fa per te l'orologio, avrai un ritorno di investimento molto superiore. E secondo me il video che ha usato Apple durante il lancio del prodotto è perfetto. È un video che si può trovare facilmente su YouTube se fate una ricerca, diventerà uno di quei video ad che usano spesso. E fa vedere una gamma di utenti di età, sesso, background, tutti diversi. C'è la nonnina che dice che ha 82 anni e che è grata ad Apple per l'orologio. C'è un signore che ha una mezza gamba amputata e fa nuoto e parla della sua esperienza. C'è la ragazza che va a scuola e che vuole chiudere i tre circolini del fitness e si mette a fare le flessioni a un quarto a mezzanotte nella sua camera dell'università. Cioè, fa vedere proprio che quello che a cui io do valore per l'orologio è diverso da quello che puoi dare tu, Enrico o Luca. È proprio personalizzato e questo è la chiave per capire che cosa questi oggetti fanno per te. Certo, e questo vale in generale per tutti gli smartwatch. Dicevamo, Luca, la caratteristica principale, e poi non spendiamo altre parole su questo prodotto, è appunto la connettività, che mi sembra un buon passo in avanti, cosa che esiste su altri prodotti di altri produttori, quindi però... Ricordo uno smartwatch, forse LG era stata la prima a mettere l'LTE come capacità sullo smartwatch. Apple dice in realtà invece che ci lavorava da tempo, ma solo adesso è riuscita a trovare la soluzione. In effetti l'antenna finisce, praticamente diventa lo schermo e l'antenna sostanzialmente. In effetti il vantaggio della soluzione che hanno trovato è che praticamente lo spessore e le dimensioni sono rimaste identiche, pur mettendo questa possibilità soprattutto e inoltre un nuovo processore che è parecchio più veloce. Sì, sono stati presentati anche i nuovi iPhone 8 e 8 Plus o Plus, perché è latino, però non mi sembra che ci sia grande interesse. Io citavo all'inizio distributori, ho parlato con una persona che ha interrogato una serie di distributori, persone che si occupano di grandi negozi e tutti dicono che tutti stanno aspettando e vogliono iPhone X e sono praticamente disinteressati, poi chiederemo anche a Carolina, agli iPhone 8, che sono sostanzialmente una evoluzione degli iPhone di oggi. Beh, abbastanza comprensibile, perché essendo il top di gamma, quello che ha catturato l'attenzione, un altro telefono, ci sta che su questi ci sia meno attenzione, anche perché iPhone 8 è la continuazione di un percorso iniziato con iPhone 6 e 6 Plus, che poi si è mantenuto come design identico in 7 e 7 Plus, quindi adesso Apple ha deciso di non fare 7S ma di passare a 8 per dare un segnale di stacco. Devo dire che tutto sommato ci sarebbe dovuto stare anche a chiamarli 7S per le funzionalità che hanno, anche se quest'anno tutti chiamano 8, cioè Samsung ha scelto 8, Nokia ha scelto 8, tutti scelgono 8, esatto, il numero 8 è il momento giusto, anche esatto. Se è il 2017, poi vedremo quest'altro anno che cosa succederà. Carolina, ti aspetti un po' un flop dell'8? No, assolutamente no. Secondo me quello che non viene tenuto in considerazione è che chi è eccitato al momento, chi sta su di notte a fare i preordini che sono incominciati qui in America proprio questa notte, la notte passata, sono quelli che vogliono il 10, cioè i primi che vanno a comprare, che fanno le file, che vogliono l'ultimo prodotto, è il 10 a cui sono interessati. L'8... sono d'accordo con Luca, è incrementale, no? Ha avuto sicuramente la fotocamera è migliorata moltissimo e per tanti solo quello sarà una ragione per fare un upgrade, ma vediamo l'8 come più un upgrade per chi ha modelli più vecchi del 7. Chi ha un 7 e un 7 Plus sicuramente andrà al 10. Noi abbiamo visto, quando abbiamo chiesto ai consumatori qua in America dell'interesse, specialmente del prezzo, che è una cosa che mi fa sorridere, no? Perché da una parte c'è chi dice più di 1.000 euro per un telefono non lo vorrà nessuno, dall'altra parte ci sono quelli che dicono tutti vogliono quello e nessuno vuole gli altri. Quindi cioè, vedremo dopo le prime settimane, ma sicuramente alcuni aspetteranno anche di vedere in carne ed ossa il 10 prima di magari decidere. Sì, credo, Carolina, per aggiungere una cosa, che il valore dell'8 possa essere anche nel suo essere rassicurante rispetto invece all'iPhone X, che comunque, togliendo il tasto home, per un utente iPhone è un passaggio abbastanza forte, no? Nell'utilizzo proprio del dispositivo, sì. Passare tra le applicazioni, eccetera. Probabilmente per un utente che si è trovato fino ad oggi con questo modello che prevede il Touch ID, che prevede il tasto home, eccetera, iPhone 8 è una risposta. Certo, è più nella continuità. Certo. Sì, sicuramente. Noi adesso ci concentriamo su due temi, perché introduciamo il nuovo telefono che si chiama appunto per alcuni iPhone X, perché si scrive così, quindi uno dice iPhone X, ma in realtà si pronuncia iPhone X, cioè iPhone 10. This is iPhone 10. Ecco, sentite Tim Cook pronunciare il nome di questo nuovo smartphone. Dicevo, due temi su cui ci concentriamo. Uno è il riconoscimento del volto, il riconoscimento facciale, tecnologia che abbiamo già visto su altri prodotti, ma adesso se ne sta riparlando, ci sono dei dibattiti anche sulla sicurezza delle città, sul Grande Fratello, relativo al riconoscimento della faccia, al posto dell'impronta digitale, al posto del PIN, al posto della password. Il riconoscimento facciale è la tua nuova password, la faccia è la tua nuova password, ma questo vale un po' per tante altre caratteristiche biometriche. E l'altro tema è la ricarica wireless, ricarica senza fili, anche in questo caso l'abbiamo vista già su altri brand, su altre marche. Ma c'è una cosa interessante di cui parleremo tra poco, anche perché tra poco vi introdurrò un esperto di questo tema. Partiamo da iPhone X e dal riconoscimento facciale, che è stata un po' una novità per Apple, almeno. Assolutamente. Tieni conto che io sono convinto che una delle innovazioni da un punto di vista tecnologico, ma anche dell'utilizzo, più rilevanti nel campo smartphone degli ultimi anni sia stato il Touch ID. Perché in effetti il fatto di sbloccare il telefono così in fretta, con l'impronta digitale, fare i pagamenti con Apple Pay, eccetera, con questa semplicità, non è stato un passaggio di poco conto. Apple con iPhone X fa un passaggio importante, perché toglie questa tecnologia dal telefono, probabilmente perché non ci stava, perché come saprete, insomma, iPhone X, come differenza principale, specie nel primo impatto rispetto ai precedenti, è che è tutto display, quindi non c'era spazio per il tasto home, e implementarlo sullo schermo evidentemente non è cosa tecnologicamente semplice. Qui toglie una cosa per offrirne un'altra. Generalmente quando Apple fa una cosa del genere propone una tecnologia semplice che funziona, quindi questo è il grande punto di domanda. Da quanto visto nell'area demo, funziona veramente in maniera molto veloce il riconoscimento facciale. L'ho visto provare non era possibile provarlo, diciamo, registrando il proprio volto, ma lo facevano le persone che ti assistono nell'area demo, e si sbloccava in maniera molto veloce. Anche la registrazione del proprio volto è veramente rapida. Carolina, su questo tema, su questo aspetto e sulla capacità di Apple di introdurre un prodotto che funzioni, sembra una banalità, ma nel mondo Android abbiamo visto un sacco di telefoni dove il riconoscimento del volto non funziona, o comunque funziona molto male se sei in un ambiente illuminato. Tu che cosa ne pensi? Sì, è un rischio per Apple. Come diceva Luca, Touch ID ha abituato milioni e milioni di utenti, funziona, è sicuro, siamo usi a questa funzionalità, e quindi cambiare non è mai una cosa semplice. Però la realtà è che mettere un Touch ID anche dietro al telefono, che è quello che fanno praticamente tutti gli altri produttori di telefono, Samsung, Huawei, LG, hanno tutti spostato, quando lo schermo diventa più grande, l'infrared per il dito dietro, Non funziona così bene, specialmente per i telefoni Samsung, che dove il lettore è vicino alla fotocamera finisce a toccare la lente della fotocamera più volte che non il lettore del dito. Quindi ci sono delle soluzioni che non sono molto eleganti e sappiamo benissimo che Apple non è per quello. C'è stato, ho visto, diciamo, una tematica di gente che diceva: ah, ma gli altri venditori ti danno una scelta, quindi non sei obbligato a usare soltanto il tuo viso per sbloccare. Sì, gli altri venditori ti danno una scelta perché quello che hanno non funziona sempre, il punto che hai fatto appunto tu, Enrico, che a volte non funziona. Apple qui ha una fotocamera facciale davanti che fa depth sensing, che aiuta e aumenta questa capacità del telefono di capire effettivamente di vedere il tuo viso. E tra le altre cose, come fa sempre Apple, non fa una cosa sola, quindi non è soltanto lo sblocco del telefono, ma il telefono adesso capisce quando tu lo guardi e quando non lo guardi. E quindi, per esempio, se ti arriva una notifica di un messaggio e tu stai guardando il telefono, sei capace di leggere il messaggio senza sbloccare il telefono. Se suona la tua sveglia al mattino e tu guardi il telefono, la sveglia si blocca. Quindi c'è anche un'intelligenza in più, diciamo, di prendere una feature del telefono e fargli fare più cose. Questo è un aspetto interessante perché il tema dell'intelligenza artificiale sugli smartphone ci sta lavorando ad esempio molto Huawei, con addirittura un processore dedicato a questo tema, ma questo aspetto è importante, cioè la capacità del telefono di guardarti e dire: vuole sbloccare il telefono oppure vuole fare dell'altro. E comunque su questo poi bisognerà provarlo nella vita di tutti i giorni. Però possiamo aggiungere un aspetto, Luca: funziona anche di notte, perché attualmente tutti i cioè comunque al buio, non necessariamente che sì, sia notte. Sì, esatto, era una delle domande. In effetti Apple non avrebbe mai deciso di farlo se non fosse stato possibile. Come diceva Carolina, c'è un insieme di sensori, cioè questa fotocamera è fatta di una serie di sensori che rendono questo riconoscimento molto efficace, e viene anche utilizzato ad esempio come credenziale diciamo per Apple Pay. Immagino, sicuramente arriveranno applicazioni che riescono a sfruttare questa nuova funzione del telefono. Sì. Quindi in effetti va letta in maniera un po' più complessiva che non soltanto la capacità di sbloccare il telefono. Assolutamente sì, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, anche Huawei ha lanciato il processore, e lo stesso A11 Bionic, il nuovo processore di iPhone, ha un elemento dedicato a machine learning, intelligenza artificiale, che si vede nel riconoscimento del volto, che si vede nelle animoji, che sono appunto questa capacità di animare una faccina seguendo i movimenti del tuo viso. In effetti è una cosa che fa abbastanza ridere, però poi quando la vedi funziona particolarmente bene. Comunque è interessante, ripeto il concetto, cioè il telefono capisce, cioè dovrebbe capire, poi lo si proverà e si vedrà quale sarà l'efficacia, se lo stai guardando per sbloccarlo oppure per altro. Poi a volte non hai di capire bene. Peraltro devi guardarlo, se gli occhi chiusi non si sblocca, se prendi una maschera che anche uguale a te non si sblocca, se prendi una foto non si sblocca, eccetera. Ecco, su questo punto volevo fare una considerazione, perché molti ascoltatori giustamente diranno: ma questa tecnologia l'abbiamo già vista su altri telefoni. Allora ripetiamo che nel mondo Android questa tecnologia è già diffusa, ampiamente diffusa, diciamo che non ha sbalordito per come funziona. Anzi. Bravissimo, mi complimento per la diplomazia, perché avrei esagerato anche un po' di più, perché il tema è: mettete sulla bilancia due cose, da una parte la sicurezza, da una parte la velocità. Allora ci sono dei produttori che hanno detto: no, dobbiamo fare un sistema sicuro, ma se il sistema è sicuro ma non funziona benissimo, quel sistema sarà o lento o non funzionerà sempre, proprio perché deve calcolare un sacco di parametri. Altri produttori sono stati un po' meno esigenti sul fronte della sicurezza, e quindi poi tu sblocchi il telefono molto velocemente. Infatti poi mi arrivano le mail che dico: ma io ho questo telefono e si sblocca facilmente. Benissimo, però gli esperti di sicurezza hanno dimostrato che molti di questi telefoni che si sbloccano velocemente sono poco sicuri, gli metti davanti una fotografia e si sbloccano. Come diceva Carolina Milanesi, Apple rischia molto, perché si gioca molto su questo il telefono, cioè questo nuovo iPhone X. Cioè, se non funziona a dovere, cioè deve funzionare sempre, Poi la leggendaria funzionalità di Apple, che devo dire è dimostrata dai fatti, cioè il Touch ID a confronto di altri lettori di impronta digitale funziona sempre ed è particolarmente sicuro, dicono gli esperti di sicurezza. Esatto. In termini di sicurezza, peraltro, il riconoscimento facciale funziona, mi pare di capire, perché ancora non sappiamo tutti i dettagli, ma sembra funzionare in maniera molto simile al Touch ID nella misura in cui il dato viene conservato in elementi sicuri del dispositivo, cioè quindi dell'iPhone. Nel caso del Touch ID, ad esempio, c'è una rappresentazione numerica della nostra impronta digitale che finisce sul dispositivo e non nel cloud. Certo. Allo stesso modo, il Face ID conserva memoria del nostro volto sul dispositivo in un elemento sicuro, ma non va nel cloud. Ovviamente, ma comunque giustamente si apre adesso un dibattito sui rischi di utilizzo di questa tecnologia. Ho visto che un senatore americano ha presentato delle domande a Apple su come verrà utilizzata questa tecnologia, se anche a fini di marketing, eccetera, no? Direi di no, perché rimane sul dispositivo, appunto, non nel cloud, però poi vedremo. Sì, sì. Carolina, su questo punto vuoi aggiungere qualche cosa? Sì, un paio di cose. Uno è che, come diceva Luca, i dati sono protetti in un modo molto molto simile a Touch ID, quindi non c'è una preoccupazione di spostare i dati dal telefono al cloud e quindi un problema di hacking che può occorrere nel cloud. E l'altro è che se conoscete Apple bene, sapete che di solito non fanno degli statement, delle affermazioni intorno a quanto sicuro sia qualcosa se non pensano che sia sicuro. E l'altro punto è che ho visto alcuni dire: ma adesso ti possono forzare a guardare il telefono. In realtà ti potevano forzare a mettere il dito su Touch ID prima, quindi non è che cambia la dinamica. E ieri in una lettera, in un'email che Fred Federici ha mandato a uno sviluppatore, abbiamo anche visto che ci sono dei modi di disabilitare temporaneamente Face ID, quindi se per esempio qualcuno sta per rubarti il telefono e tu con la mano tocchi i pulsanti da entrambe le parti del telefono, Face ID viene disabilitata. Una cosa che magari ai consumatori può interessare è che ovviamente prima con Touch ID potevi registrare più di un dito, potevi registrare le tue cinque dita, ma potevi anche registrare, come per esempio ho fatto io, il dito di mia figlia, che così ogni volta non deve chiedermi il PIN. Adesso è una faccia sola, perché ne abbiamo una sola, ma in realtà chi vorrà fare uno sharing dell'iPhone 10 dovrà utilizzare il PIN alle altre persone che hanno accesso al telefono. Ok, molto, molto interessante. Non parleremo di prezzi, magari se vogliamo ne possiamo parlare in una futura puntata, cioè non entriamo in questo dibattito. Molti altri prodotti hanno prezzi esagerati o meno rispetto al loro valore, ma nessuno accende un dibattito. Questa settimana c'è stato un dibattito pazzesco sul prezzo dell'iPhone X, che partirà in Italia da 1189, quasi 1200 sì. euro. E ognuno deve decidere, cioè se gli interessa e vuole pagare, se il valore intrinseco a questo prodotto. Io penso che molto si giochi anche se uno vuole iOS, sistema operativo iOS, oppure Android. Sì, diciamo che anche quando si parla di competitor è giusto parlarne, ovviamente, perché poi il dibattito interessa molto sulle specificità tecnologiche, però stanno diventando veramente dei mondi che uno un po' sceglie, no? Sì. Quindi se preferisci iOS, tendenzialmente preferi iOS, e lo stesso c'è chi vorrà sempre Android. Sì, noi non entriamo nel dibattito, no. Se uno vuole sapere il nostro esatto. parere, ci scrive un'email e noi gli spieghiamo il parere. Sul prezzo di cui non vuoi parlare invece. Sì, vai. Sì. No, ma velocemente, Apple però con questo lancio di tre device, peraltro mi pare fosse la prima volta che lanciava tre telefoni contemporaneamente, sì. Ha una gamma parecchio ampia di telefoni anche rispetto al passato. Quindi questo sicuramente per loro è strategico sul market share, cioè il consumatore può andare dai poco più di 500 euro, se non sbaglio, ai 1300 e passa, sì. con diversi telefoni. Sì, sì. L'altra novità molto interessante riguarda la ricarica wireless, cioè la ricarica senza fili. Vi presento Igor Spinella, che è fondatore nonché amministratore delegato di Ectronics, che si occupa proprio di ricarica wireless induttiva. Igor, bentornato a 2024. Grazie. Ti faccio subito una domanda molto importante. Per la, non so se è la prima volta, comunque una delle poche, non è la prima volta perché abbiamo visto altre tecnologie standard, però Apple non ci ha abituato, ed è una delle critiche che spesso gli vengono fatte, agli standard. In questo caso stiamo parlando invece di uno standard, giusto? Sì, sì, si parla di uno standard, ed è lo standard più importante al mondo nel settore della ricarica wireless, che è lo standard C. Sì, tra l'altro si scrive QI, però si pronuncia C. Non si sa perché, non so se tu lo sai, Igor. Si pronuncia C perché è cinese, ed è una parola cinese che vuol dire flusso di energia, e per questa ragione è stato scelto, diciamo, come nome commerciale di una tecnologia che poi fa capo a un consorzio che è il WPC, cioè Wireless Power Consortium, che è il consorzio che raggruppa tutte le più grosse società, raggruppa anche noi, ma noi siamo piccolini dentro al consorzio per quanto agguerriti e innovativi, ma raggruppa ad esempio Apple da pochi mesi, e infatti abbiamo visto, un po' noi ce l'aspettavamo, diciamo, che il nuovo iPhone X avesse la ricarica wireless, così come Samsung e così come tutti i più grossi costruttori di telefonia. Senti, perché è una notizia interessante? Perché anche in questo caso uno potrebbe dire Apple ha introdotto su iPhone 8 e su iPhone 10 la ricarica senza fili, cioè basta appoggiare il telefono su una base di ricarica e lui si ricarica, cosa che anche altri produttori già facevano da tempo. Da molto tempo, cioè è uno standard questo che è nato anni e anni fa, che Samsung ha introdotto addirittura al tempo del S3, quindi parliamo di tantissime generazioni fa, almeno come predisposizione. Dall'S6 di serie, quindi prendendo il telefonino dalla scatola, si ricaricava, quello che si può fare adesso con l'iPhone X o anche con l'iPhone 8, chiaramente. Però qual è la cosa che cambia di molto le regole del gioco? Il fatto che è stato Apple a fare questa scelta. Quindi se prima ogni costruttore diceva lo metto oppure non lo metto questo standard di ricarica wireless, dopo che lo fa Apple, dopo che l'ha già fatto Samsung, il mondo è chiaramente orientato verso l'eliminazione di tutti i cavi. Quindi tutti gli aspetti che nel giro di poco tempo noi avremo in casa, in ufficio, nei luoghi dove andiamo, delle basi, delle mattonelle sulle quali appoggiamo i telefoni, o addirittura delle integrazioni all'interno dei mobili. Che ne so, adesso noi siamo io e Luca in uno studio e potremo avere nello studio una parte dove appoggiare i telefoni e nel frattempo si ricaricano. Che è poi quello che stiamo cercando di proporre noi sempre con maggior successo al mercato, cioè se vendiamo chiaramente gli oggetti stand alone che si appoggiano sul tavolo, ma l'obiettivo di lungo periodo, adesso che tutti i più grossi costruttori hanno fatto una scelta molto chiara, è quella di andare a nascondere la tecnologia all'interno delle proprie superfici di vita, quindi la scrivania, il tavolo, non lo so, il divano, l'automobile, quindi ovunque io stia ho degli spot di ricarica nascosti, che quindi non impattano o addirittura valorizzano l'estetica dell'oggetto che sto vivendo e che mi permettono di ricaricare in modo continuo e quasi senza accorgermene il telefonino, che è sempre più centrale nella vita di tutti noi. Carolina, su questo punto vuoi aggiungere qualche cosa? Un paio di cose. Una cosa rispetto a quello che dicevi tu dello standard, no? Apple ha iniziato a lavorare con C perché qui non diventa solo una questione di accessori, diventa una questione di infrastruttura, no? E quindi andare a fare qualcosa che era diverso da tutti gli altri avrebbe prolungato enormemente i tempi di abbracciare questa nuova tecnologia. L'altra parte importante non sono soltanto i mobili, ma come ha fatto vedere Apple on stage, la parte delle automobili, quindi il lancio di poter avere CarPlay integrato alla ricarica in macchina è importante, quindi andare dove va il mercato è stata la cosa giusta per Apple. Però poi ci mettono la loro salsa speciale, no? E quindi hanno questo AirPower che arriverà nel 2018, dove per la prima volta stanno lavorando con C per avere la possibilità di caricare diversi devices, quindi il telefono, la nuova scatolina per gli AirPod e il watch, allo stesso tempo, e farlo in maniera intelligente. Quindi Apple ancora ci prova a fare qualcosa di suo, e il fatto che ci arrivano e lavorano con C è una cosa importante per il mercato. Molto bene, io ringrazio Carolina Milanesi per essere stata con noi, analista a Creative Strategies. A presto, buon lavoro. Arrivederci. Igor, una domanda sulle automobili. Visto che sono state citate, state lavorando anche in quel segmento, giusto? Beh, assolutamente sì, appunto, come stavamo dicendo, la ricarica wireless, e io aggiungo anche lo scambio dati, è un ecosistema. Quindi quando riesco a togliere il collegamento cablato per i dati e quando riesco a togliere il collegamento cablato per ricaricare, sono veramente libero di portarmi con me il telefonino ed essere sempre connesso e carico, che è quello che voglio. L'automobile è uno dei punti fondamentali di questo ecosistema, quindi noi stiamo lavorando con tutti i più grossi nomi, diciamo, del mondo dell'automobile a livello internazionale, per andare a integrare, alcune auto si vedono già delle integrazioni fatte, e la ricarica wireless con degli spot disponibili all'interno del veicolo. Luca? No, volevo fargli una domanda, insomma, dal questo punto di vista privilegiato, diciamo, questa mossa di Apple diventa una spinta per il settore, e in parte direi che ha già risposto, mi pare, in maniera positiva. Volevo sapere se secondo lui adesso i produttori di smartphone, che magari già lo hanno fatto anni fa di tirar fuori tecnologie wireless, lo faranno in massa. Io credo proprio di sì, nel senso, l'idea è proprio questa. Finora, e parlo del mondo Android, perché è il mondo Android che, come al solito, è il primo a tirar fuori tecnologie con risultati alterni. Poi arriva Apple, le fa effettivamente particolarmente ben raffinate, e poi diventano uno standard de facto, quindi dopo Apple tutti la devono avere. Quindi se adesso Samsung l'aveva come standard, e da anni, quindi compravi Samsung, volevi la ricarica wireless. Nel resto del mondo Android era una scelta, alcuni puntavano sulla fotocamera, altri puntavano sul retro in metallo, altri puntavano su questa o quell'altra funzionalità, ma non era definito il fatto che la ricarica wireless fosse un must, un devo averlo. Dopo Apple il mondo si muove in quel senso lì, quindi per noi è importante, sia perché chiaramente quando ce l'ha Samsung e quando ce l'ha Apple diventa una tecnologia già di massa per questi due marchi, ma perché tutti gli altri marchi a questo punto a ruota non possono non adeguarsi. Sì, non è sempre vero, perché io mi aspettavo ad esempio per le cuffiette, gli auricolari, che altri produttori seguissero Apple con gli AirPods, che sono Bluetooth e quindi non hanno più il filo, e trovo straordinari, sono fantastici, io li uso tutti i giorni, ma aspettavo che gli altri lo facessero, ma invece su questo punto non li hanno seguiti. Invece sulla ricarica vediamo se sarà così, o comunque molti hanno già fatto questo passo in avanti. Ultime due domande, poi Luca, se vuoi aggiungere qualche cosa. Due domande per Igor Spinella. La prima è: essendo uno standard, se io ho un caricatore di un'altra marca oppure di terze parti come quelli che producete voi alla Ektronix, posso caricare quindi anche Apple? Assolutamente sì, E vale anche il viceversa, quindi una base di ricarica Apple ricarica anche telefonini Samsung, ad esempio, o comunque qualunque telefonino che sia stato certificato C, come anche qualunque vanno certificati il trasmettitore e il ricevitore. Quindi certifico il telefonino C, certifico il trasmettitore C, a quel punto garantisco l'interoperabilità. Consuma di più? Allora, se cominciamo a guardare i numeri in termini di efficienza percentuale, la risposta è leggermente di più, perché chiaramente stiamo facendo qualcosa di senza fili, quindi che anche solo a seconda di come lo posiziono può essere un po' più efficiente, un po' meno efficiente a seconda se sono stato bravo a centrare, diciamo, lo spot di ricarica. Però la differenza è così lieve e le potenze in gioco così basse che vince assolutamente l'esperienza d'uso dell'utente che si trova ad appoggiare il telefonino senza pensarci. Dopo un po' diventa un automatismo così straordinario che la comodità vince ampiamente sul consumo, che sarebbe da guardare con l'oscilloscopio, ecco la differenza. Certo. Molto interessante, e questo effettivamente è una cosa che potrebbe cambiare la nostra vita di tutti, infatti, i giorni. Se ne è parlato meno di altre cose, ma pensare magari di arrivare con il telefono in aeroporto, con appoggiarlo da qualche parte si ricarica, insomma, quello poi cambia le cose, sì, perché sì, la batteria, come sappiamo, è un problema oggettivo, no? La sì, durata della batteria. Sì, sì, sì, esatto. Igor, grazie per essere stato con noi, ti sicuramente coinvolgeremo nuovamente su questo tema molto importante e molto interessante. A presto, buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Luca, l'esperienza è stata bella perché avete inaugurato questo teatro che è un po' magnetico da un certo punto di vista, perché poi i budget di Apple sono straordinari, visto che l'azienda con se non lo fanno loro, esatto, diciamo, l'azienda con la più grande capitalizzazione del mondo ha una cassa incredibile parcheggiata un po' in giro per il mondo con un sacco di soldi, quindi si possono permettere di fare cose molto belle, diciamo. Hai fatto, insomma, un'esperienza abbastanza unica, no? Beh, no, devo dire che è stato interessante da questo punto di vista. C'era un'enfasi celebrativa, perché in effetti il decennale, eccetera. Sì. Quello che forse però è giornalisticamente più stimolante è andare a immaginare i prossimi 10 anni, no? Perché è vero che era celebrativa, però poi sono stati messi in campo una serie di novità il cui sviluppo nei prossimi anni è da osservare. Certo. Banalmente, il teatro è intitolato Steve Jobs e va bene, però l'azienda adesso è nelle mani di Tim Cook, quindi l'Apple di Tim Cook, che lui ha detto, quando ha presentato iPhone X, lui stesso ha detto, questo è il nostro modello di telefoni per i prossimi 10 anni, no? Sì, forse un po' esagerato. Un po' esagerato, un po' ambizioso, vabbè, però va un po' riempito di contenuti, ad esempio la realtà aumentata, che al momento è una cosa sì, non che ne abbiamo parlato non perché abbiamo parlato, ma si fa un po' fatica a parlarne ancora, no? Sì, perché sì, facciamo sì, fatica a immaginare vere ricadute, però oggi vedevo un report, non vorrei sbagliarmi, di Goldman Sachs, che vedeva un futuro radioso proprio per una nuova generazione di app e di servizi, che peraltro per Apple sta diventando molto redditizi nel conto economico, quindi al di là dell'hardware. Queste nuove fotocamere unite al framework ArcKit e alle nuove fotocamere hanno delle potenzialità notevoli. C'è una zona del visitor center dell'Apple Park dove con degli iPad ti fanno inquadrare una base, diciamo un modello di com'è la sede, no? Solo che tu la vedi in plastico bianco che non dice niente, poi vista con il device, con l'iPad si anima, quindi può cambiare l'orario, vedi com'è il tramonto, eccetera. Ma veramente efficace, però. Insomma, sì, sì, sì. E quindi vediamo se questo può essere davvero una prospettiva. Vediamo se funziona Face ID, come abbiamo detto diverse volte, è decisivo per valutare poi come sì, andranno sì, i nuovi prodotti. E questo. Molto bene, grazie a Luca Salvioli per essere stato con noi. Ricordiamo che potete andare sul sito del Sole 24 Ore e leggere tutto quello che Luca ha scritto in questi giorni per farvi un'idea se ancora non ve la siete fatta. Luca, ciao, a presto. Grazie, a presto. Questa settimana l'autorità per le comunicazioni, l'AGCOM, ha deciso di avviare procedimenti sanzionatori nei confronti di 4 operatori telefonici, parliamo di TIM, Vodafone, Fastweb e Wind3. Sapete che Wind e 3 si sono fuse in un'unica azienda. La questione è relativa alla fatturazione per quanto riguarda la telefonia fissa, quindi anche collegamenti ad internet, che da, in alcuni casi, quasi 2 anni sono passati a 4 settimane per alcuni profili, invece che il classico mese, invece che la classica fatturazione, la bolletta mensile. Ho parlato di questo con il commissario, uno dei 4 commissari dell'Agicom, Francesco Posteraro, che ci ha fatto un breve quadro della situazione. Sì, allora, nel marzo di quest'anno l'autorità ha adottato una delibera con la quale ha precisato che per la telefonia fissa la cadenza di rinnovo delle offerte e delle fatturazioni deve avere base mensile o di multipli di mese e che in caso di offerte convergenti fisso mobile prevale la cadenza riguardante il fisso. Poi nell'esercizio dell'attività di vigilanza sul mercato, gli uffici dell'autorità hanno verificato che alcuni operatori, quelli menzionati nel nostro comunicato stampa, cioè TIM, Wind 3, Vodafone e Fastweb, non hanno dato attuazione, secondo gli uffici, attuazione adeguata a questa nostra delibera. E allora gli uffici ai quali compete aprire il procedimento sanzionatorio hanno voluto darne informazione, acquisire l'orientamento del Consiglio su questo punto. Il Consiglio ha espresso un orientamento favorevole all'apertura dei procedimenti sanzionatori, quindi adesso si apre un procedimento nell'ambito del quale gli operatori avranno tutto il modo e il tempo di fornire le loro spiegazioni e esprimere le loro difese, svolgere le loro difese. A conclusione del procedimento, i cui termini sono, mi sembra, di 150 giorni, la questione arriverà, sarà portata dagli uffici al Consiglio con una proposta che può essere di archiviazione o può essere di sanzione e il Consiglio deciderà. Certo, sostanzialmente voi dite, l'autorità dice, se non vi adeguate potrebbero scattare delle sanzioni, quindi l'auspicio è che comunque ci si adegui. Se si riconosce che è stata violata la delibera, sicuramente bisogna adottare le sanzioni. Certo, voi parlate di effetto trascinamento, perché in questo caso stiamo parlando dell'ambito telefonico, della telefonia fissa. Esatto. Sì. Quando parlate di effetto trascinamento, immagino parliate di altri settori contigui, visto che esiste un caso molto chiaro, che è quello di Sky, e visto che stiamo parlando di un ambito dove l'autorità può intervenire, potrebbe esserci una decisione, diciamo un effetto trascinamento anche della decisione? Aspetti, non è così semplice. L'effetto trascinamento può esserci dei comportamenti degli operatori, perché le norme sulla base delle quali l'autorità si sta muovendo sono norme del codice delle comunicazioni elettroniche. Per l'audiovisivo non abbiamo gli stessi presidi, per cui nel caso Sky possiamo allo stato dei nostri poteri, allo stato della legislazione, noi possiamo svolgere indagini sulle offerte in bundle, sulle offerte convergenti Sky Team, Sky Fastweb, potremmo valutare, ma ancora non abbiamo fatto alcun passo in questo senso. Quello che lei legge nel nostro comunicato è qualcosa che ha un ambito più generale, perché in ipotesi in qualsiasi settore economico si può arrivare a fatturazioni che abbiano una cadenza inferiore a quella mensile. E l'autorità ha fatto, come dire, un discorso un po' di sistema, e cioè di preoccuparsi del fatto che non si diffonda una pratica di questo genere. Ha voluto, come dire, accendere una spia e valuteremo che iniziative prendere. Diciamo la più semplice è quella di segnalare il caso al governo e al Parlamento perché valutino se non adottare una norma di legge con la quale si impedirebbe nella maniera più assoluta una pratica di questo genere, pratica alla quale l'autorità è contraria per ragioni, come dire, di tutela dell'utente e di trasparenza. Anche perché è un aumento tariffario mascherato, di fatto. È un un aumento tariffario, se non proprio mascherato, diciamo non assolutamente chiaro. È un aumento tariffario, mi pare, dell'8,6% su base annua. Io credo che l'effetto sulla clientela della comunicación, vi pratichiamo un aumento tariffario dell'8,6%, sarebbe stato più chiaro che non questo di dire aumentiamo la tariffazione, si riduce da un mese a 28 giorni. E del resto, se fosse stato, scusi, mi permetta una valutazione minimamente personale, se l'effetto fosse stato lo stesso, ma probabilmente gli operatori avrebbero puramente e semplicemente adottato l'aumento di prezzo, anche perché aumentare la carenza di tariffa, diminuire la base temporale della tariffazione, per loro ha comportato anche dei costi, no? Certo, perché devono cambiare i sistemi informatici, insomma c'è comunque un po' di lavoro. Appunto. Quindi se era del tutto indifferente non l'avrebbero fatto, avrebbero puramente e semplicemente applicato i prezzi maggiorati. Vuol dire che sulla clientela ha fatto un effetto diverso, ha avuto tutto, un impatto tutto da dimostrare poi, tra l'altro. Visto quello di cui si sta dibattendo in questi ultimi mesi. Cioè noi abbiamo l'impressione che gli utenti non siano, i consumatori non siano stati, non siano completamente tutelati dal punto di vista della trasparenza e della chiarezza dell'offerta, perché le norme sulla base delle quali ci muoviamo sono norme di legge che sono il fondamento delle nostre norme regolamentari, le quali a loro volta sostengono le nostre delibere. Beh, a questo punto, di fronte all'opinione pubblica che si è arrabbiata molto di fronte a questo passaggio dalla fatturazione mensile alla fatturazione ogni 4 settimane, che si può fare, l'ho detto anche l'Authority, si può fare nell'ambito della telefonia mobile. Invece fino adesso abbiamo parlato di telefonia fissa, anche di collegamenti ad internet o di offerte ibride che sono composte sia dal fisso che dal mobile. Ecco, anche in quel caso la fatturazione deve essere mensile secondo questa delibera dell'autorità. Però dicevo, di fronte all'opinione pubblica, di fronte alla politica, perché tutto ciò ha sollevato anche un dibattito politico, e ci sono alcuni parlamentari che dicono adesso facciamo un provvedimento di legge. E la stessa Authority non ha escluso di scrivere ufficialmente al governo e al Parlamento per auspicare un provvedimento di questo genere. Di fronte a tutto ciò, sarebbe bello se gli operatori telefonici decidessero di tornare sui propri passi. Potrebbero dire: abbiamo fatto una stupidaggine, ammettiamo che forse non è questo il modo corretto per approcciarsi ai consumatori, per confrontarsi con i consumatori, e la risolviamo così, volontariamente. Vedremo, ci credete? Chi lo sa, boh. Però basta poco per cambiare, però a volte le aziende sono vittime del marketing così aggressivo che si inventa queste soluzioni, e ci sono un sacco di persone ragionevoli in tutte le aziende che magari non hanno voce in capitolo. Chiudiamo questa puntata di 2024, come sempre grazie per la vostra attenzione. Fateci pubblicità tra amici, parenti, colleghi di lavoro, politici, perché è importante che i politici abbiano una consapevolezza di come sta cambiando rapidamente il mondo grazie alla tecnologia. Torniamo la prossima settimana, vi ricordo i nostri orari: venerdì tra le 22 e le 23, domenica abbiamo guadagnato qualche minuto tra le 13 e le 14, quindi una replica più lunga, ma se volete godervi appieno 2024, la cosa migliore è il podcast, il nostro super podcast, tutte le nostre interviste in edizione integrale. Io sono Enrico Pagliarini, grazie come sempre per la vostra attenzione, ci risentiamo la prossima settimana.